tempore ora adesso di studio ma c'è lui nel decreto in presenza procuroso se viene procuroso da applicato se viene procuroso da applicato non c'è mai questo da non è da spiegarci a ricantare il presidente su conferenza ma il sintetico del mio articolo è anche questo qua di una terra che conosci anche che da una città economica non conosci anche in Italia quindi anche questo è la mia scena però sta ma la specie di cerchi a portare nella e non è una delle specie strane autore critica la possibile cosa critica il prete che dice che l'esame si lo vince sarà giornato in modo di credere moche questa è un cambio che noi sbagliamo noi adesso ora si è lasciato di uscire il ghiacci e il vaso che il vaso si era ha fatto la vita di parlare il vaso è uscito Quindi che io ho fatto che ha dato la parola di voto. Adesso è una maledizione, poi la dimostrazione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una maledizione, ma è una malediz